soldi, tanto già sei in ginocchio, non ti devi. Finalmente la tosse cassa. Pure la figa. Ultima band della serata. Vi aspettiamo domani. Radio Default, Occhia Palusa, ZK. Tu la cocchia, la sgranocchi. Do it yourself. Ma solamente se sei oddio. Come infatti sono io. Lay down your soul to the gas, rock and roll. Ci occorrono armi, mitraglie, granate, scordatevi pure che cos'era con. Dobbiamo difendere le nostre patate, più forza nelle zappe, o non mangiate più. Per essere i massoni, portano solo i milioni. Se posso tratti di buon grado. La poi pende di Ostia Palusa, la tosse grassa. Ti apro il culto della tosse grassa. Ti apro il culto col cazzo che ti passa. Del paese dei balordi, di degrado siamo ingordi. Allo stato capitale preferiamo via cinghiale. Dal momento che sei entrato, sei stato battezzato. Se ti stai divertendo diventare merendo. Se vivi di merende diventa tanto pane. Se ti prude la vagina diventa una tossina. Ti apro il culto della tosse grassa. Ti apro il culto con cazzo che ti passa. Ti apro il culto, ti apro il culto della tosse grassa. Ti volto peccato del posto di una casa. East Coast! Signore e signori, la tosse grassa, il culto della tosse grassa e il Radical Macabre Dance Commando. Questa sera abbiamo con noi Tosi! E il debuttante Principessa! Abbiamo iniziato con un brano che guarda caso era il primo, il prossimo invece è il secondo ed è un brano che risale al nostro primo album e parla della concorrenza, ossia di quelli che condividono con noi, oltre a un particolare gusto per l'eleganza, anche quello per certe preferenze sessuali. E ma questa nemmeno fischia, oste, questa qui è solo per bellezza, cioè se no la togliamo, vabbè, uguale, eh? E mandi avanti il prossimo perfetto, eccolo. Padre mostro, toccami, leccami. Padre mostro, spogliami, prendimi. Padre mostro, che c'è tanti peli e ancora non ce li ho, però quello che voglio lo so, ce l'ho anch'io, ma piccolino, non come quello di papà. Alza quella tonaca, si è fatta la tua volontà. Padre mostro, toccami, leccami. Padre mostro, spogliami, prendimi. Come codi sull'altare, come codi in terra, prendo questo in memoria di te. Facciamo l'amore contro la guerra. Il corpo di Cristo, io lo so cos'è. Padre mostro, toccami, leccami. Padre mostro, spogliami, prendimi. sono io che ti provoco con le mie calze corte, ma un giorno crescerò e non ti piacerò. Resta con me, non mi lasciare, fammi ancora male, non mi indurre in depressione. Libera l'animale, libera l'animale, libera l'animale. Padre mostro, toccami, leccami. Padre mostro, spogliami, prendimi, leccami, leccami, leccami, leccami. Yes! Yeah! East Coast, signori, veniamo dalle Marche, che è una regione che si trova da quell'altra parte. Chiaro, i nostri dissing sono molto più brevi di quelli degli americani, perché la traversata è molto più semplice, basta non perdersi sulla puntina, cosa che abbiamo fatto, e non è la prima volta, signori. Andiamo avanti con un brano del nostro secondo album. È un brano che parla di piccoli compromessi che ci tocca accettare per portare avanti la nostra vita. Per esempio, ti piace bere la birra, dare la tira di birra? Ti tocca stapparla. Non è che automaticamente devi fare quel gesto lì, e pertanto... Esatto, quello. È una cosa che spesso ci mette in difficoltà. Il brano si intitola L'ospite d'orrore, con aerei, perché sennò è errore. Sul poster, quell'uomo lì, chi ce l'ha messo? Deve essere uno scherzo, voi volete farmi pezzo? Ce l'ha voluto il sindaco, ordine della loggia. Adesso giù la testa, o sta il trano nove foggia. È l'ospite d'orrore, c'è l'ospite d'orrore. Mi l'ha detto l'assessore, ci sta l'ospite d'orrore. C'è l'ospite d'orrore, mi l'ha detto l'assessore, ci sta l'ospite d'orrore. Ci sta l'ospite d'orrore! Ma la mamma! Alla brache! Con quello in giro che sta aspettando che piace! Ma la mamma! Al passato! Non la voglio avere questo liquido giallo! Se volete fare festa, dovete pagar pegno! Un po' è sacrificio! E che venga il suo regno! Nascondete pure i bimbi! Se li cerca lui trova! Se li mangia come bambi, non chiedetegli la prova. Mentre balli l'alli galli, lui scorrazza per il prato. Ti ritrovi figlie cinta e non c'è dubbio su chi è stato. Ma sul banco fa il discorso e te li rendi disturbato. Uno grida, fa scoperta, viene subito pestato. È l'occhio di dolore, c'è l'occhio di dolore. Me l'ha detto l'assessore, ci sta l'ospite. L'occhio di dolore, ci sta l'occhio di dolore. Ritto l'assessore, ci sta l'occhio di dolore. Sì, modestamente sono l'occhio di dolore e sono ancora qua, già. L'occhio di dolore, c'è l'occhio di dolore. Me l'ha detto l'assessore, ci sta l'occhio di dolore. C'è l'occhio di dolore, me l'ha detto l'assessore, ci sta l'occhio di dolore. L'ospite d'orrore. Che sta a tribolare con cosa? Qual è? La macchina del fumo? Sente in giro magari Qualcosa trovi. Allora, qui la tosse grassa. Il culto, la tosse grassa, il Radical Macabro Tanz Commando. Tossi! E per la prima volta sugli schermi, Principessa! E grazie a tutto l'Ostia Palusa. L'Ostia si collega un po' col discorso di prima del corpo di Cristo. Comunque, ora dobbiamo parlare d'altro, tipo prenderla nel culo, ma in un modo...